la provi, ok? Dai, e devo chiudere, ma in queste condizioni non posso parlare. Ciao a tutti. Vabbè, per Marco mandami un messaggio appena sei, insomma, così almeno mi preparo. Ti mando un messaggio quando sono operativo, dai. Ciao a tutti, ciao. Ok, ciao, grazie. Quindi il messaggio te lo mando stanotte. Per Marco è notte fonda ancora. Avete parlato in due. Sì, stanotte è il delirio. Come lo stavo tarando con... ho notato che... Allora, ti spiego, Massimiliano, monofinale. Non ha due finali come pensavo, ha il prefinale più il singolo finale. Quindi più di tanto non lo puoi spingere questo. Ho notato che mettendo gli 8 watt di portante, Muzza già tendeva a saturare un po'. Allora l'ho lasciato a 5, cioè da 4 l'ho portato a 5 e 12 in SSB. Di più è meglio non spingerlo, anche perché poi in futuro per pilotare qualche linea retta è meglio pilotarlo in basso. Ok, dai. Un saluto festoso a tutti e ci sentiamo domani quando mi alzo. Ciao. Ehi, va bene. Ehi, vabbè, poi Marco, poi bisogna sentirlo anche con la voce di Gianni, che è un po' diversa, capito? Ehi, ma già va bene, a voglia. 5 watt, ma già si può tirare un pochino di più, Va bene, devi fare una cosettina, da qua non fa dirlo. E sai cos'è, Massimiliano? Io ho letto proprio ieri notte di due versioni, lo stesso apparato. Uno monta due finali più il prefinale, invece una versione monta un prefinale e un solo finale. E io ieri uno ne ho visto di finale, l'altro era il pre, capito? Comunque per il resto, certo il microfono originale non sa un granché, però esce. Ma poi non c'ha l'EB93 lui, basta fare la pedinatura giusta ed dovrebbe andare bene, dai. Di nuovo un saluto a tutti, ciao. Riprendi Daniele. Ciao Marco, dai. Riprenditi, risvegliati. E buon proseguimento, dai. Riprendi Antonello. Sta lavorando Antonello. Sì, lo profè, fai così allora. Tanto tu di quell'apparato piccolino, di quello che stai usando adesso, il microfono suo originale ce l'hai. Quell'EM95 ti cambi le connessioni e te lo fai per quella radio che ti darà Marco. Così se devi usare la radio normale, c'hai il suo microfono con la radio normale. E con quella che ti dà Marco usi quello amplificato, che spinge un po' di più. Ah, ok, quindi bisogna cambiare la pedinatura, giusto? Giustamente, quella ce l'ha come il Galaxy, capito? Ok, ma quell'apparato ha il suo microfono? Sì, che ha il suo microfono, però avrà un suo microfono dinamico, no? Al mare, normale. Io dicevo, se tu riesci a cambiarti la connessione, te lo fai a connessione di quello, capito? Appunto, dal suo microfono originale, smontando lo spinotto, riesco praticamente a capire come cambiarlo, capito? Ah, sì, fai così allora. E così ti fai questo amplificato, te lo metti in quella radio là, capito? Vabbè, dai, vediamo, sì, con il suo microfono originale, smontando lo spinotto, riesco a capire praticamente come fare le nuove connessioni, dai. Col tester già, non hai bisogno nemmeno di smontarlo, lo sai, se trovo lo schemino te lo allego, capito già, te lo allego. Sì, comunque uguale, come ha detto Massimiliano, è come il Pluto, come tutti i 3009, capito? È quasi standardizzato quello. Voi lo sapete, ma io non lo so questo standard, non lo conosco questo standard, quindi non lo... Capite? Ecco perché io sarei partito dalle connessioni originali del suo microfono. Sì, anche quello è valido come... Alla fine si arriva sempre alla... Riesce ad arrivare comunque, dai, allo scopo. Ciao. Andava bene. Ok, va bene, dai. Vediamo un po' cosa succede. Avanti Daniele. Gala. Anda bene meta, non ne ho voglia oggi no. Ah, già che così c'hai il 45, senti un po' di casino, le bande là. C'hai un po' di canali in più e ti puoi spostare dove vuoi. Ok, allora, visto che vai così, vai, piscia e coccati. Perché non si dice così, vai, piscia e coccati, vai. Già si dice così, ma si vedrà, già è giusto. Almeno anche lui si fa le sue chiacchierate al 45esimo. Sì, adesso mi troviamo un linearetto da 1000 watt, così scioglie l'antenna. Così la fa fusa, puntina di vento. Adesso, dipende da quanto ce l'hai l'alimentatore tuo già. La HPG, dai. Lascia perdere. Cioè, stai usando la batteria di moto? No, era un alimentatore da 5 ampere. Da 5 ampere? Ah, che ho piccolo è. Vabbè, questa radio già la fa andare. E vabbè, anche quella che ti dà Marco la fa andare lo stesso. No, non ci arriva 5 ampere, no, va scherzando. Lo so, le radio già le fa andare, ma se vuoi attaccarci l'aiutino non te lo tiene. Cosa vuoi ti dica? Ma che cosa la devi impendibolo è? Dove c'è un compagno, un alimentatore, quello va dai cinesi. Quelli che devi mettere le viti, no? Il filo, che le manca il filo, ci sono dai cinesi, mi sembra che costa 25 euro o 20 euro da 50 ampere. Quelli tipo computer, no, Massimilia? Io ce l'ho uno da 30 ampere di quelli. E poi di quelli lì ne avevo preso 6 per farmi un alimentatore, li abbiamo tutti accoppiati, no? Però non li ho presi dai cinesi. Capo, li ho visti su... quel modello lì li ho visti su eBay, mi sono apparsi. Sì, ma non c'è bisogno di andare da eBay, ci sono dei cinesi, ce li hanno i cinesi, e mi sembra che cosa, o 20 o 25 euro. 50 ampere ci può attaccare tranquillamente, anche il 550 ti porto. Cacchio. Buono sapersi, già me lo stavo dicendo pure Antonello tempo fa. Sì, ci sono questi alimentatori che insomma il loro lavoro già te lo svolgono. L'ho preso ieri 17 euro io, 50 ampere. Quanto l'hai pagato Antonello? 17. 17 euro? Eia. Da 50 ampere? Ehi. Sono andato lì dal fondo, come si chiama, Eurasia, quello attaccato a città mercato. Poi me l'ho preso, anche io non ho 20 ampere. L'unica cosa che non ho preso è l'antenna per il wifi, che me ne sono dimenticato. Adesso domani me la prendo, costa 20 euro, mi prendo anche il cavo, poi l'aggancio alla pennetta e così mi aggancio al wifi del vicino. Che c'è per sgomballo? Pirata! Ah no, ti conviene per 20 euro, ma è bella amico l'antenna direttiva, è una 12 elementi, è bella, piccola di stiletti, ma toga. Domani, ce n'è rimasta solo una, domani me la prendo, tiro il cavo, 15 metri di cavo, la direttiva è l'appunto, come si chiama, dove c'è quello che c'è il videogiochi, mi appunto lì almeno a voglia giga. A te, la riprendi già, tu non ne hai da sgobbare nel vicino? Già l'ho sgobbato quando c'era la possibilità, tranquillo. Ah, ecco, hai capito cosa costa un alimentatore a 50 ampere già? Eh? 17 euro, poi gli attacchi il filo alla presa. Eia, sì, già ho sentito. Bene, meda, dai, ci facciamo un pensierino. Smetti di fumare, non ti compri né tabacco, né cartine, né nulla per un paio di settimane e ti prendi l'alimentatore. In 2 giorni te li recuperi, Massimilia. No. 2 o 3 giorni sta a fumare. È appunto bariscio. Basta che si può quello a cannone, se lo rivende e fate i soldi subito. Così hai fatto tu, Antonè? Ah, io non l'ho fatto così, no. Io ho usato quella roba, quella gialla. La roba cinese. Capa, sto scherzando, dai. Hai fatto bene. Gara, già va bene. Sì, sto preso, da 50 ce l'ho anche da 20 ampere. adesso mi si poco l'alimentatore dentro una scatola, poi vediamo se ci sta il palacchino dentro, mi faccio vedere le apparecchiature sulle palle. Brava, comunque Antonio, con cazzo di servizio, quella storia scade a luglio, sino a luglio siamo coperti. Ah, che bello, quindi ci ridanno in contante, bisogna andare solamente in banca. Cappa, l'ho chiamata, mi sono dimenticato di chiamarti, che tra una cosa e l'altra, facendo, mi è sfuggito la mente, sino a luglio, quindi c'è questo mese. Ah, intorno al 25 di solito, mi sembra che era, no, 25-28. No, lo so, Antonio, il mese scorso hanno iniziato dal 18. Ragazzi, io mi devo spostare, dai, ci aggiorniamo dopo, ok? Ok, Gianni, dai, già siamo qua. Riprendi Massimiliano. Ehi, anch'io qualche altro passaggino, poi andiamo a fare qualcosa. Ciao già, ci sentiamo. Fatti sentire, mi togliti il pigiama adesso. Fatti sentire dopo quando ti portavo la radio. Bene, mi ascolti a me, Antonese. Io voglia. Ah, il 40 c'è comunque. Ecco, ho girato il commutatore, basta fare appena di leva e c'è anche il 40. Sì, ma il 40 funzionante? Sì, il 40 funzionante. Andavè. Sì, c'è più la pinza dopo, non ti preoccupare. Faccio vedere che ti metto sotto e sopra il canale. Mi divento un po' questo malattia. Se trovo dei quadri ti metto anche i canali di altri, se ti piace. Va bene, fai tu, tanto una caviami quella cosa lì. Sì, va bene, io ce l'ho messo il 500 S così, tutto modificato, sono canali sopra, sotto, poi ho fatto un ponte, mi pare che ci ho dato il 540, adesso lo devo controllare, devo fare la prova. Se c'ha qualcosa vi faccio quel ponticello, così c'è tutti i canali. Capito il pulsante, capito? Io mi ero pensato un altro, e così c'ho sotto, tutti normali, e basta, poi devo pensare di sopra, lo vediamo un po', devo cercare Luku, devo fargli un foro, metterci una di quelle cose alle vette dietro. Gli faccio 80 canali in più. Kappa. Come ti volevo dire, invece quell'altro non si può fare nulla, peccato, è nuova la radio. Mi è già capitato l'apparecchio con quel tipo di effetto, cioè quello che mi ha dato Torino, se toccavi col dito il display apparivano i numeri, e invece mollavi i numeri apparivano, invece in quello tu appaiono tutto, di tutto di più appare. Sembra un, come si chiama, un lampadario. Adesso devo vedere, perché ci sono due licenze grosse che scaldano e sono mezzo partite, perché si vede che sono mezzo partite, e le voglio cambiare, vediamo dove in pratica il costo, perché non dovrebbero scaldare queste qui, capito? Queste vanno alla tensione, al come si chiama, PLL e tutte cose, capito? Adesso domani le cambio quelle licenze, vediamo un pochettino, e poi li cambio anche il transistor che c'è piccolino che alimenta tutto quanto il circuito, e vediamo cosa succede, se riesco a fatto funzionare come si deve, perché è un peccato, è un nuovo. Se te lo sto dicendo, è un peccato, sì, e per quello io infatti ho detto adesso magari quello c'ha il 19,69, anche, hai visto come finale, e infatti è per quello che ho detto, se lo toglie da lì lo mette nell'altro. Vabbè, comunque, adesso l'importante sia a posto quello. Bianco, un secondo. Ehi, ehi. Sì, chi è? È certo che ti sento. Santiago, sì. Radio, non è 5, è 3, ma ti sento. Con l'antenino di gomma. Adesso ti sei anche spostato e sei salito. Santiago, 6,5. No, stavo provando se mi sentivi anche a me, ma non mi senti. Cosa? Infatti non ce la fa. Cioè, perlomeno da qui, da casa, mi sente Tino. Tino mi sente bene. Mi sente anche Claudio Santiago 1, col gommino, KK, sì, no, già ti ascolto, Sì, vabbè, io già lo sai dove abito, quindi lo vedo anche dove sei tu, Sarò Vacone, che intendi fa fai, fai, avanti, Antonio. Sì, io non ho sentito per niente. Giusta, sento solo a te. Quell'altro non ho sentito per niente. C'era Franco di Sosa, stava provando un portatile. Santiago 6:30 qua mi è arrivato. Oh, però che non lo sentivo, ma non lo sentivo, io sono già negativo a fare il sotto. Da quando aveva costruito queste palazzine più alte della mia, queste che ci sono qui a prima del quadrato, è un casino. Ma non ho capito la zona di sotto, ma vedevo tutto. Allora, ma con quello vedo. Ci mancava solo che costruiscano qualche grattacielo più dietro dove sono io, che siamo a posto. Sì, io mi vado già sei in alto. E se la che basta tu l'antenna, se la sollevi appena appena da lì guai. No, non sollevo niente, non lascio così. C'ho tre parafulmini attaccate a casa. Era 15.000, già lo sai tra lì. Quindi non vorrei fare la fine di cosa, di che cosa, che diventa rosso. Preferisco stare come sono, già almeno dormo tranquillo la notte. Kappa. Vediamo Franco, ci sei? Ne stavo attaccando l'altro e ne ha due uguali, mi ha detto. Uia, mamma mia, capa. Sì, comunque se riesci a farle regolabili, infatti sarebbe meglio, Antone. Già li metto potenziometro, li metto là. E così vedo di fatti veri regolabili. Ehi, aspetta, sta chiamando, vai Fra. Allora ascolta, con questo il segnale c'è, ma c'hai pochissima radio, No, la radio è molto bassa, Fra, quasi incomprensibile. Il segnale c'è, però la radio questa non si è bassissimo proprio. Probabilmente questo qua, siccome hanno preso umidità, erano sempre dentro una cassetta giù nel sottoscala, erano. E c'era un bel umidità, probabilmente per quello. È già troppo che funzionano. Mi hai ascoltato, Massimiliano? Sì, che ti ho ascoltato, sì, hanno preso umidità, e vabbè. Comunque il primo che ha provato andava va bene, quest'ultimo qua no. C'ha pochissima radio. E quello dipenderà dal microfono, che questi hanno microfono, sia microfono sia autoparlante per ascoltare, tutto uno. Kappa, va bene, vai Antone, c'è Antonello Pomponio anche. Aspetta un attimo, telefono. Ciao Antonello. Con chi? Da solo Antonello? Poi c'era Daniele, poi c'era un Profeta, Marco, Condor, poi c'era entrato per un pochino. Chi è? E lui Daniele è rientrato. Ciao Daniele. Buongiorno, no, mi sto facendo una sigaretta, 5 minuti mi sono assentato. Va bene, la mia Riosoli intanto la devo fare. Guarda che fa male fumare. Bravo. Già lo so, fa male a tutto, tasca, salute, a tutto. Se fosse solo la tasca non sarebbe stato dei problemi grossi, ma il problema più grosso è che fa male alla salute. È così, infatti qua no, io qua sto presso il palco, non ne porto, cerco di essere il più possibile, le lascio giù e al momento me la faccio. Fai bene, fuma, avanti, Massimiliano. No, io ho già smesso due volte, basta, con questa spero che sia l'ultima. Adesso sono già 2 anni e mezzo, senza toccare niente. E ti dico che fa bene alla salute e anche alla tasca, più che altro alla tasca. Capo. A tutte e due cose fa bene. Al prezzo che sono adesso le sigarette è un casino fumare. Nel 2000 io fumavo 2 pacchetti di sigarette al giorno. Nel 2000 ho preso il pacchetto delle sigarette, l'ho stretto fra le mani, l'ho fatto tappetto e non ne ho più fumato. Aprile 2000. Io invece ne ho fra. Io stavo fumando, mi ho lasciato 3 sigarette di numero e ce li ho ancora qua a casa. Col pacchetto, col suo accendino dentro. Non agi più toccato. Cappa. Io nel cricotto della macchina me lo sono tenuto per un anno il pacchetto delle sigarette, uno aperto e uno chiuso, mai una radio Ducato. Meglio. No, ma poi lo sai che cos'è, fra? Poi ho iniziato a comprarmi il suo tabacco perché risparmiavo qualcosina, ma sempre con queste cartine, filtrini, tutto l'ambarava, no, ero fiaco buzzinoso, mamma mia come so. Vabbè, è un viziaccio, vai Daniele. Così, va bene. Già mi appetto anch'io adesso e cerco di smettere. E vediamo cosa succede. Ma non è comportabile, eh? 5 e 6, Antonè. Quasi 7, Antonè. Questo è un portatile. Io ce l'ho questo portatile, ma non esce nulla, buh. Ma c'è un'altra persona che ce l'ha, uguale a me, cazzo, dice che si può portare a 10 watt questa cosa. Aspetta, va parlando Antonello perché non lo senti, fra. L'HC420+. Sì, aspetta anche fra, che stai, tu non senti Antonello, ma Antonello sta parlando, eh. Allora, qui Antonio, sì, Santiago 7, la radio è un po' bassina, la verità, non è 5 perfetta, però già ti ascolto. Allora, così sono con 4 watt, così sono con mezzo watt. Allora, con mezzo watt mi arrivi Santiago 3, con 4 watt mi arrivi 7 spaccato. Ma già va bene, io faccio fa questo, guardate il senso qui. Ma è l'antenna la sua, il gommino, eh? No, solo più lungo 1,20 m, quello suo originale. Ah, ecco, quello che stavo cercando, un'antenna un po' più lunga, dice no, 20 cm, sarà malissimo, boh. E quello sì, se li metti lo stilo lungo, vedrà com'è. E che stilo li metto lungo? Sono quelli che vengono da Torino, capito? Quelli stili da Gaggia. E quanto vengo? Mi pare che vengo mai di 10 euro. Ah, ok, vabbè. Vai fra, dimmi. Sì, questo c'è bene. Segnalo, dalle un colpo di martello, così lo sai che è quello rotto. Vai, dai. No, Massimiliano, lo metto dentro la porta da bagno. Tu che stai parlando, Massimiliano? Stavo parlando con Franco di Sorso, stavo provando un portatilino e niente, dai, ti avevo rilanciato, credevo che lo ascoltavi a Franco. No, sento un brusio sotto, ma non si capisce niente, capito? Non mi arriva qua col portatile zero. Come non arrivo lì? No, fra, sento brusio a livello di QRM, sì. Col portatile sì, però devi considerare che sto usando l'antennino di gomma interno, dentro casa. Capa, è per quello. Ripeto, sento un brusio a livello di QRM, un qualcosa, però non riesco a distinguere se è voce o QRM, capito? Magari se ti metti in un'altra posizione più libera, magari arrivi. Sì, se sto fuori dal terrazzo a Massimiliano gli arrivo quanto è questo, gli arrivo, perché tutto libero, figurati. Esco fuori, solo che non c'ho la corrente, il cavo è abbastanza lungo per uscire fuori. già va bene, allora dai, meglio così. Vai, riprendi Massimiliano. Sì, dai, riprendo che io adesso inizio a allontanarmi, là. È già l'1:20 e iniziamo a fare qualcosa, se no è un casino, là. Magari ci sentiamo o dopo o stasera se coincide. Buona carica a tutti e alle prossime. Ciao Massimiliano, buona carica, dai. Io se riprendo dopo il Gran Premio e cerco di riguardarmelo. Idem, anche io, dopo la Ferrari. Andale, riprendi fra, mi saluti a Massimiliano. Ciao, dai, ciao Massimiliano, ci ascoltiamo alle prossimine. Buon pranzo quando farai e buon proseguo di giornata. Ho limite più tardi. Gava, pompo! Sparito, eh. Ieri era dalle tue parti, fra. Ah, qui ieri. Era cazzo è venuto a fare a questa zona? Da mio suocero ero. Ah, la voglia di sorso è? No, è accudita. Ah, vabbè, secondo quanti anni c'è anche lì fa parte di qua? Dall'87 che abitano lì, però sono di fuori, capito? Abitano lì in zona Monte Columba. Monte Columba? Niente, non ci sono questi, ma non lo so come chiedi. Stariamo bene. All'uscita, vada verso la Budi Budi, fra l'uscita di Sorso, dove c'è il campo sportivo, quello nuovo che hanno fatto sulla sinistra scendendo. Ah, quello lì si chiama Monte Columba, lo sai, non l'ho mai letto, guarda. Eppure hanno messo i cartelli. All'altro ingresso di Sorso, dai, quando passi alla Budi Budi che giri per Sorso, ti fai tutto quel rettilineo. E lì poi c'è quel viotto, dai, Monte Columba. Capo, a pensare che lo facevo tutti i giorni quella strada lì, la facevo. E non mi ero mai accorto che c'era questo Monte Columba. Via Monte Columba, mi pare, già. Una cosa del genere, comunque con Columba è. Capo, va bene. Antonello, ma ci sì. Infatti ho detto nella voglia, diciamo andiamo a trovare a Franco adesso, visto che siamo qua. Buongiorno, buongiorno a tutti, Franco, c'è qualcuno che ti sta chiamando, eh? Ehi, ciao Marino. E chi è? Avanti. Ma chi è Franco, ti sta chiamando, non tutti? Chi è che sta chiamando? Sento che sta parlando qualcuno, però non capisco le parole. Ma se non è, non è importante, non fa. Abbassa la modulazione, c'è troppo forte. Non tutti, Franco. No, se lo lasciate parlare, sì, probabilmente che lo potrei anche ascoltare, se lo lasciate parlare. No, capisco, sento che c'è qualcuno sotto, però non lo capisco. No, negativo, non ti ascolta, non ti ascolta, anche se ti sei sfruttato, negativo. Sente qualcuno sta modulando, ma non ti ascolta bene, avanti, Massimiliano. Sono giù nel suo marino, Massimiliano, suo marino, negativo giù. Ok, ciao Massimiliano. Franco, riprendi, io non mi ascolto, scusate, avanti, fra. Capo. Niente per Massimiliano, probabilmente in qualche zona negativa, col portatile, si è messo in qualche altra zona, perché poco fa ho provato io, mi ascoltava lui, magari si è spostato in un'altra zona. No, negativo fra, sta utilizzando il portatile giù in casa sua, negativo, anch'io ti ascoltavo con Santiago di Sette, vicino perfetto, all'altro portatile, invece Santiago sì, la modulazione è zero, non ti sentivo. Ok, scusate, non è niente, io non lo ascolto, eh? Ciao Marie, ci sentiamo. Marie, abbassa questa modulazione, è troppo forte. Se stai modulando quello che fa il mare, il suo originale, tutto qua. Ok, ciao Daniele, non mi ascolto, scusate, sto facendo una roba, eh? Ehi, Marie, dai, buon proseguimento, niente disturbo, figurati. Avanti Franco. Cappa, Marino, ti devi ricordare sempre o moduli lontano o gli abbassi il mitigin. Perché qua non si capisce cosa sta dicendo, parla veloce, qua non si capisce niente. Ciao, vabbè, a volte capita di aumentare il mitigin oppure avvicinarsi molto al microfono. Cappa, poi devi stare lì a regolarti tu la distanza tra microfono e tutto, anche se no diventa incomprensibile. Un macello. Cava. Ola. Così c'è l'ecco. Sì, guarda, io... Vabbè, io sto usando tutti i microfoni da tavolo. Microfono palmare, sono tutti nel cassetto. Sono a 50 centimetri, sto modulando a 50 centimetri dal microfono. Ma il 60 è quello, fra. Cappa. Andava. Già si sente il tic-tac. Vabbè, è sulla radio, si sente sì. Quella senza quel microfono non funge, Poi ne ho un altro che lo sto usando sul Lincoln, lo sto usando. È diversa la modulazione, però è sempre lo stesso microfono, sempre l'MC60. Andale. Ma c'è lui adattare i microfoni con la voce. Tutte cose. Deve avere voce grossa per farli andare. Infatti. Se c'è la voce grossa questi qua pompano, Già lo so. Qua c'è voi, io invece c'è la vocina, non pompava al 20%. Vabbè, però già. Anche tu cosa stai usando adesso? Perché la modulazione è bella forte e chiara. Io sto usando il 48 con c'ho solamente un microfono midrange, però il 4190 è un dinamico lo stesso ed è l'opposto dell'originale, però è marchiato midrange. Quello vero. Bravo, uguale a quello CTE, non cambia niente, sono da questo è midrange. L'ho messo su questa modificata. Hai detto cos'è siglato? Guarda che è il 4190 MDL 4190 è il gemello del CTE, uguale. No, il mio non ce n'ha di queste sigle così. C'ha solo davanti Midland, c'ha dietro c'ha una targhetta Made in Cina e basta. E sopra c'ha il coso per mettere la pulsantiera per i canali, però non c'è la pulsantiera. Ma è modello simile CTE? No, è marcato Midland. Ho capito, Fra, però il modello è simile al CTE, nero. No, è uguale a quello del Midland originale. Ho capito qual è, sì. Va bene, aspetta un secondo che c'è una bassa. Fra. Anda bene, vera, dai, che adesso chiudo e qua è pronto, ci sentiamo stasera. Dai. Va bene, alle prossimine. Dimmi una cosa prima di andartene. Hai notato niente la modulazione? Più forte, Fra, leggermente. Questo è il Linco, da poco fa, è il Linco con l'MC60. No, è buona, no, che era un 60 l'ho riconosciuto allo stacco. Capito? E di conseguenza ho abbinato la radio al 60. Ciao, ci sentiamo Daniele. A Fra, dai, a dopo se coincide, buona carica appena la fai. Ciao. Anche a te.